Mix 24 di Giovanni Minoli. I faccia a faccia della storia. Il buon cuore non basta. Bisogna avere il coraggio di dire basta quando sono troppi e intervenire nei loro paesi. Queste sono le parole del Dalai Lama sul problema dell'accoglienza ai migranti durante il suo ultimo viaggio in Italia. Ecco, noi l'avevamo incontrato a Dharamshala, in India, dove vive. Chi è il Dalai Lama? Cosa pensa? Sentiamolo. Santità, lei è stato riconosciuto e scelto a 4 anni e subito portato via per essere allevato come Dalai Lama. Non si è mai sentito privato della sua fanciullezza? Dici anche me do. No, assolutamente. Ci può raccontare come è avvenuta allora la sua designazione a Dalai Lama? Bisogna riferirsi alla storia delle successive reincarnazioni del Dalai Lama. Adesso si è arrivati alla 14ª. Il nome di Dalai Lama fu dato a partire dalla 3ª reincarnazione. All'inizio, al momento della scelta, ci sono in genere diversi candidati. Nel mio caso mi sembra ve ne fossero 17. Poi da questi ne furono selezionati 3 e fra questi fu scelto io. Lei ha incontrato Giovanni Paolo II. Di che cosa avete parlato, brevemente? Ho incontrato Sua Santità già in 2 precedenti occasioni. Abbiamo discusso del fatto che benché il progresso esteriore sia veramente notevole, è difficile per l'uomo trovare la pace interiore. Per cui il progresso scientifico tecnologico deve essere accompagnato anche da un progresso interiore. Ecco, prima di incontrare il Papa Wojtyla, nel 73 aveva incontrato anche Paolo VI. Che cosa l'ha colpito nella differenza fra i due papi? Prima di tutto, quando incontrai Paolo VI, il Papa mi parlò attraverso un interprete e il dover passare attraverso un interprete in genere rende difficile comunicare, ma mi dette l'impressione di possedere un vivo interesse per le religioni orientali. In quanto a Giovanni Paolo II, prima di tutto l'ho appunto potuto incontrare più volte. Poi penso che in un certo senso abbiamo una storia personale molto simile. Entrambi abbiamo dovuto affrontare gravi problemi. Ma chi è Gesù Cristo per il Dalai Lama? Come buddista considero Gesù Cristo un essere superiore, una manifestazione di Buddha o un Bodhisattva, un essere superiore insomma. Santità, lei ha detto che il buddismo non è solo una filosofia o una religione orientale, ma anche un metodo di vita particolare. Che cosa vuol dire in 2 parole? Come ho detto prima, penso che la religione serva a soddisfare il desiderio di felicità interiore dell'uomo. Deve quindi essere capace di dare effettivamente questa felicità. Non è sufficiente che sia l'espressione verbale di un certo modo di pensare. Il buddismo insegna a trasformare prima di tutto la propria mente, quindi il comportamento della parola e del corpo. Ad esempio la preghiera è molto importante ed anche questo è un metodo per trasformare il comportamento di mente, parola e corpo. Lei spesso dice, che l'ha detto anche prima, che la cosa più importante della vita è la gentilezza. Ecco, ma cos'è la gentilezza? Una definizione. Prenda come esempio l'affetto che in genere i genitori hanno per i propri figli. Questo non dipende dal comportamento del figlio, sia questo buono o cattivo, bello o brutto, c'è sempre. Noi dobbiamo cercare di avere un affetto simile, meglio sarebbe verso tutti quanti gli esseri viventi, ma almeno verso tutti gli uomini di questa terra, considerarli come nostri cari, come fratelli, sorelle, riuscire a sentire il dolore altrui come il proprio, la felicità altrui come la propria. Questo buon cuore quindi sarà causa di felicità di tutti quanti quelli che ci stanno vicino e anche della propria. Questo è quello che io intendo per gentilezza. Santità, scusi, la gentilezza in una situazione di oppressione e di ingiustizia, cosa è? Mettiamo il caso che si sia vittima di un'ingiustizia e che il non opporsi ad essa sia causa di ulteriori ingiustizie. Allora è bene opporsi nel modo più appropriato alla situazione, ma sempre motivati dall'amore, quindi senza odio, con il ragionamento e con l'intenzione sincera di essere di aiuto. Certo è difficile, ma con la pratica è possibile. Anche con la violenza lo si può affermare? La violenza in generale è negativa e quasi sempre causa di sofferenza. Ma dal punto di vista del buddismo, la motivazione di un'azione è il fattore determinante. Se questa è priva di interesse personale, interamente intesa al bene degli altri, se queste condizioni sono presenti, allora in certe circostanze anche atti violenti sono ammissibili. Ma questo tipo di educazione si ottiene con la meditazione, cioè con la medicina della montagna, è praticabile solo qui oppure dovunque nel mondo? Al momento in cui si inizia la pratica della meditazione, le condizioni dell'ambiente sono molto importanti. Il posto deve essere pulito, sano, tranquillo, privo di distrazioni. Quando si è acquisita una certa esperienza, il potere della meditazione impedisce a circostanze sfavorevoli esterne di influire sulla mente. Quindi, a questo livello della pratica, non fa più differenza il luogo dove si è. Quindi si può stare benissimo anche nelle nostre città dopo? Certo, è possibile. D'altra parte, se si è dei veri meditatori, si medita per poter essere di aiuto agli altri. Quindi, raggiunto un certo livello, si deve vivere nella società. E se non fosse per particolari ragioni, stare sulla cima di una montagna da soli non ha più senso. Ma quindi i giovani che sono venuti dall'Occidente negli anni 60 qui per cercare queste condizioni di meditazione, è bene che una volta imparato tornino nel loro paese di origine. Meditazione è una parola sola, ma ha un vasto significato. Ci sono diversi tipi di meditazione e molte tecniche meditative. Quindi per meditare prima bisogna imparare a meditare. Non c'è niente di male allora nel muoversi per il mondo, per venire in contatto con diverse religioni ed apprendere le loro tecniche meditative. No, ma io chiedevo se poi i giovani, per esempio, che sono venuti a cercare la verità qui, quando hanno imparato a meditare, se debbono tornare oppure debbono restare qua. Io penso che al momento dell'apprendimento si debba restare nel luogo dove esistono le condizioni migliori per questo, ma una volta appreso, a meno forse in certe particolari circostanze, si deve ritornare alla società a cui si appartiene, al proprio paese. Sentita, lei in passato, appunto parlando di società a cui si appartiene, ha detto: voi occidentali vi preoccupate solo dell'estensione della vostra intelligenza e non conoscete la ricchezza della contemplazione. Ecco, esattamente cosa vuol dire? Negli ultimi 2 o 3 secoli in Occidente si è visto questo forte interesse nel progresso esteriore. che ha causato lo sviluppo dell'intelligenza a questo relativa. Invece non si è dimostrato un pari interesse a riguardo della conoscenza e lo sviluppo degli stati interiori. Questo è, secondo lei, il male più grave dell'Occidente? Sì, non so se si possa dire il male dell'Occidente. Certo, se si è solo preoccupati delle cose esterne, questo si può dire è sbagliato, perché d'altra parte è vero che il progresso esterno ha come scopo il rendere felice la gente. Ora, tutti si accorgono che questo non è sufficiente. Sentita, lei ha detto che se il buddista dovesse scegliere un sistema economico, sceglierebbe il marxismo. E se un marxista dovesse scegliere un sistema filosofico, sarebbe il buddismo. Perché? Prima di tutto, bisogna dire che il buddismo parla di qualcosa come di una creazione personale, nel senso che la condizione del proprio futuro è determinata e creata da ciascuno di noi. Non c'è nessun altro che ci impone la nostra condizione futura. Da questo punto di vista c'è una certa affinità con il marxismo. Allora come mai dopo l'occupazione da parte dei comunisti, dei marxisti cinesi del suo paese, il Tibet, lei è andato in esilio? Cioè cosa non le piace allora del marxismo cinese? Prima mi riferivo al marxismo originale. Ci sono molte nazioni che dichiarano di seguire l'ideologia marxista, ma al momento di metterla in pratica, in realtà seguono politiche di potere, nazionalismo, eccetera. Comunque i cinesi l'hanno invitato a ritornare in Tibet. Lei però non ha accettato fino ad oggi. Perché? La cosa non riguarda la mia persona. Io non considero né me stesso né l'istituzione del Dalai Lama importanti. I 6 milioni di tibetani in Tibet sono ciò che conta. Sono esseri umani che hanno per migliaia di anni posseduto la loro cultura, le loro profonde tradizioni. È il benessere di questi tibetani che in sostanza è ciò che mi sta a cuore. Ora io mi devo chiedere, per loro è più utile che io rimanga in esilio o che ritorni. Per ora credo che sia meglio che io resti fuori dal Tibet. Molti tibetani in Tibet vorrebbero incontrarmi più presto, ma queste stesse persone mi sconsigliano di tornare. Lei, a proposito della sua partenza dal Tibet, ha detto: se fossi rimasto in Tibet sarei rimasto molto più conservatore, l'essere andato via mi ha reso più aperto. Ecco, che cosa ha imparato di importante fuori dal Tibet? Penso che quando un uomo si trova a dover passare un periodo difficile, se sa affrontare e anche mettere a frutto queste difficoltà, la sua esperienza e il suo coraggio aumentano e così anche la capacità di accettare la realtà. Sentita, lei è capo politico e anche religioso del suo popolo. In Occidente ci sono voluti secoli per separare questi due ruoli. Lei come li concilia? Dalla religione deriva il bene della società, così pure dalla politica. La religione si occupa dello sviluppo delle qualità del pensiero. Ora, se un'azione politica ha una motivazione positiva, sarà di vero aiuto. Se invece è motivata da interessi personali, inganno, eccetera, sarà un'azione politica oppressiva, dannosa, non è vero. Per cui credo che se nel pensiero c'è una motivazione, diciamo, religiosa, l'azione politica, l'applicazione della legge, le diverse attività sociali saranno più effettive. Si può dire, come fa qualcuno, che la Cina ha in Tibet il suo Vietnam? Certo, non c'è tutta quella violenza, ma di sicuro i tibetani sono molto ostili verso i cinesi. Non importa quanto i cinesi abbiano cercato con metodi pacifici o violenti di indottrinarli, non ci sono riusciti. E anche i tibetani cercano di creare più problemi possibili ai cinesi. Senta, ma si parla di 1 milione di morti in Tibet. È una cifra realistica? Ho notizie a proposito da tibetani che si sono rifugiati in India e anche da profughi che hanno visitato il Tibet. Dalle informazioni che tutta questa gente ha raccolto in giro, si può veramente affermare che durante tutti questi anni ci sono state circa 1 milione di morti premature. Sentita, lei negli anni scorsi ha incontrato tutti i grandi leader cinesi, da Mao a Chuen Lai a Deng Xiaoping. Ecco, chi l'ha colpita di più? Mao Zedong. Perché? Quando parlai con lui, ebbi l'impressione di una persona rilassata e sicura di sé. Ogni parola che diceva era molto soppesata. Il suo modo di parlare aveva qualcosa di speciale. E tra i leader non cinesi che ha incontrato nel mondo in questi anni, chi le è sembrato più preoccupato di tutti della pace? È difficile dirlo. In genere molti affermano di volere la pace, ma è difficile poi capire che cosa facciano veramente per la pace. Ma qualcuno che l'ha convinta, come l'ha convinto Mao Zedong della sua chiarezza? Ho avuto occasione di avere una stretta relazione con alcuni leader indiani. Questi erano veramente speciali, per esempio Nehru, e soprattutto il primo presidente dell'India, Rajendra Prasad. Come buddista potrei dire che era un bodhisattva, veramente un uomo eccezionale. Se non sbaglio, fa 3 ore di meditazione al giorno, fa il maestro, governa i tibetani esuli, scrive, gira il mondo. Ecco, come riesce a conciliare tutto? È il mio modo di passare il tempo. Ma non è uno stile di vita un po' occidentale, molto efficiente? Se si è indaffarati per il bene degli altri, è una cosa buona. E poi, quando si ha tempo, si può pensare un po', perfezionare il proprio pensiero. Se si usa bene il proprio tempo, non si perde mai l'interesse. Qui, a Dharamsala, come vivete? Cioè, con l'aiuto di chi economicamente? Io sono ospite del governo indiano. Poi qui abbiamo un'organizzazione, abbiamo degli uffici dove lavorano volontari dei tibetani. Riceviamo anche dell'aiuto, dell'assistenza da organizzazioni e da privati, anche nel campo della preservazione e sviluppo della cultura tibetana. Quali associazioni occidentali? Di che genere? Per esempio, un'organizzazione europea che si chiama SOS, questa è, penso, la più importante. Sentita, ma nel monachesimo cristiano, qual è il tipo di monachesimo che lei sente più vicino al suo? Non conosco bene tutti gli ordini religiosi cattolici, ma fra quelli che ho conosciuto sono stato impressionato dai monaci benedettini. Il loro modo di vita nei monasteri, la loro disciplina, modestia, la maggior parte del loro tempo è speso nella contemplazione, nella preghiera, nel silenzio. Sono molti i punti in comune tra la disciplina monastica cristiana e quella buddista. Ma le donne possono essere monache, buddiste? Certo. Buddha, negli insegnamenti di disciplina, ha dato, riguardo l'ordinazione monastica, gli stessi diritti sia agli uomini che alle donne. Cambia solo il genere del nome. Ma ce ne sono di donne monache? Sì. L'aborto cosa pensa? L'oggetto dell'omicidio è un essere umano o ciò che sta diventando un essere umano. Per cui l'aborto è omicidio, è la stessa cosa. Quindi prima bisogna cercare di evitare la formazione del feto. È meglio così. Senta, i monaci buddisti producono delle pillole che in Occidente vengono considerate miracolose. Per mezzo di preghiere, meditazioni, rituali, recitazioni di mantra, si ottengono certe sostanze benedette di diverso tipo in dipendenza dalle diverse classi del tantra a cui appartengono, insomma dei diversi rituali. Ma lei preferisce il comunismo cinese o quello sovietico? Qui si dovrebbero fare delle distinzioni sottili. Sentita, lei ha detto: se fossi nato in una famiglia ricca o aristocratica non sarei stato capace di capire i sentimenti dei tibetani umili, ma invece sono nato tra i poveri e allora posso capirli. Ecco, perché? Sì, penso che abbia influito sulla mia personalità. Quando incontro dei tibetani poveri mi sento in qualche modo più vicino a loro. Ma per i ricchi e gli aristocratici allora non c'è nessuna speranza, eh? No, non intendevo parlare di discriminazione. Io lo dico sempre. In alcuni paesi comunisti si parla di lotta di classe. Questo è sbagliato. Ma il desiderio di ottenere la felicità, il benessere, deve essere rivolto a tutti. Se si cerca di ottenerlo con l'odio, anche se si parla di socialismo, in pratica quello che avviene è che si toglie quel po' di benessere che c'è e non se ne ottiene per nessuno. Sentita, un'ultima domanda. Lei sorride sempre o quasi sempre. Che cosa c'è dietro il suo sorriso? Siccome dietro c'è irritazione, di fuori sorrido. Fin da bambino ridevo spesso. È il mio carattere. Non trova che sia bello sorridere. 800 24 0024 il numero verde, 349 238 6666. Mario, che titolo faresti all'intervista del Dalai Lama? È l'uomo del mercato. Lo è. E tu, Pietrangelo? Tanto gentile, tanto santo pare. Che? Al vederlo così ben vestuto. Beh, però ogni tanto, insomma, sentire questi grandi, questi pensieri, penso che sia utile. Enrico dalla Grecia ci scrive: faccia a faccia della storia, sono la storia, forse non è vero, ma insomma, credo che valga la pena una volta ogni tanto allontanarci un po' dalle miserie quotidiane. Mix 24. Vorrei vedere la vita con gli occhi tuoi. Vorrei capire perché non ti fermi mai, non riposi mai. Intenso, si va così di fretta. Il lunedì che è successo questo, che al capolinea Battistini della fermata della metropolitana le persone sono entrate, ma le loro ombre no, perché correvano così di fretta che le ombre sono rimaste indietro al punto di farsi vive nella fermata successiva. Ed è capitato che in tutto questo gioco d'ombre, siccome tutto si era oscurato, allora i sorveglianti della metropolitana sono arrivati con delle vernici, con dei pennelli per colorare quello che poteva essere un presagio di grigio, ed è successo che una bimba si è ritrovata davanti l'ombra di un bimbo e quindi col pennello ha cercato di fargli le gote rosse e gli ha regalato, restituito l'emozione. Ma gli mancava la parola e quindi con un colpo di pennello, ecco, gli ha creato il sorriso e se ne sono andati via. Tutto questo per dire che avevano fretta, tu capisci? È nella pentola della vita di Mario che cosa bolle. Senti. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allora, siamo al confine tra Siria e Iraq, dove la guerra avanza. E nove postazioni, e si sta allargando a seguito di eventi e incidenti vari. Nove postazioni siriane sono state bombardate dall'aviazione di Israele. È la reazione all'uccisione di un quindicenne colpito nel Golan. Il conflitto è destinato a diventare una guerra regionale. Qualcuno si chiede, sì, però lo è già di fatto, perché il confine tra Siria e Iraq comunque è una sorta di colabrodo. Il posto chiave di controllo di Qaim è nelle mani di ISIS, è un passaggio molto importante al confine, certo, tra Siria e Iraq. Ci sono stati degli scontri, è conteso, ma in ogni caso c'è da stare molto attenti. Il leader supremo iraniano Khamenei ha avvisato gli Stati Uniti di non intervenire in Iraq, che tradotto vuol dire senza il nostro consenso, certo. Va da sé. E Obama? È una domanda di alleanza in qualche modo. È certo, no? Che c'era già nei giorni, certo, scorsi. E Obama stasera dovrebbe vedere i famosi piani del Pentagono di intervento, ma sono incerti anche sull'uso degli aerei, perché tu sai, bombardare è facile, perché sganci. Il problema è bombardare cosa? Esatto. Cioè devi avere intelligence sul terreno, e questa pare che manchi. Quindi stiamo attenti al Medio Oriente, mentre succedono delle cose molto interessanti in Oriente. Colpita! Maledizioni! Cosa cazzo mi hai sparato? La mia più grande invenzione, o quantomeno la mia preferita. La sostanza contenuta in quella freccia è un incredibile, potente e quasi infallibile siero della verità. Io lo chiamo la verità indiscussa. Allora, Kill Bill, la freccia non è proprio quella di Kill Bill in realtà, ma quella di Shinzo Abe, che è il primo ministro, il primo ministro giapponese, bravissimo. Parliamo di Abenomics, ma anche di Abe War in qualche maniera. Domani il premier giapponese terrà sicuramente una conferenza stampa, dove dovrebbe annunciare una cosa che agli italiani piacerebbe tantissimo. La riduzione della tassa sulle imprese. Scenderanno, pensa Giovanni, tieniti forte, sotto il 30%. Te immagini in Italia una decisione sotto del genere? Sotto il 30%. Però vuole anche far la guerra. Diciamo che vuole premunirsi nei confronti dell'attivismo cinese, e non vogliono stare a guardare le mosse di Pechino. Questo è abbastanza evidente. Tant'è che, insomma, se uno si prende la briga di andare a leggere che cosa scrivono i think tank, quelli dedicati alla strategia, all'arte militare, tutti pensano che prima o poi ci sarà una guerra nel Pacifico. Cioè, allora, anche il Giappone si riarma. Gong è la nostra quota rosa di oggi. Non sarò soddisfatta finché non si libererà la donna dal senso di colpa. Il prefetto di Perugia, non si sa perché, sabato ha deciso di dichiarare che le madri che non si accorgono che i loro figli si drogano dovrebbero suicidarsi. Ma i padri invece? Ma lasciando da parte strani modi di interpretare i ruoli di madri e padri, e invece a proposito delle responsabilità dei genitori, vi faccio sentire la testimonianza di un padre che ha affrontato la tossicodipendenza di suo figlio, e Paolo Villaggio in un faccia a faccia con Giovanni. Villaggio, quanto tempo fa si è accorto che suo figlio si bucava? 3 anni fa quando me l'ha detto. Mi ha detto: guarda che succede questo. Io che ho sempre pensato di essere un padre attentissimo, intelligente, che mi ero fatto una cultura, che avevo seguito, mi ero informato, una letteratura in casa su come ci si accorge eccetera, invece in realtà io non me ne ero accorto come tutti. E qual è stata la sua prima reazione? Panico, cioè, e poi grande colpa. Dio, non me ne sono accorto, perché non me ne sono accorto? E mio figlio mi ha aiutato, ha detto: papà, non se ne accorge nessuno, mi ha detto. Beh, 800 24 00 24, 349 238 6666. Ecco, forse il prefetto di Perugia effettivamente si è fatto trascinare dalle parole un po' troppo. Salamini d'archeologia, di siti archeologici, di visite ai siti. Allora, cancelli chiusi ieri a Pompei fino alle 10:30 del mattino. 500 turisti sono stati lasciati sotto il sole. Oggi, notizie di oggi, i cancelli resteranno chiusi fino a 12:30. C'è un'assemblea. E così, a meno che non si sveglino chi di dovere, chi di dovere, sarà domani e poi dopodomani. I turisti, insomma, sono tenuti in ostaggio ed è sempre la solita storia, incredibile. E cioè un servizio pubblico in balia delle assemblee. Oggi oltretutto è prevista pure la presentazione della stagione nel Teatro Grande di Pompei, che dovrebbe essere gemellato col Teatro Greco di Siracusa. Ma lo spettacolo che noi immaginiamo vero dovrebbe essere quello della palingenesi nella pubblica amministrazione, dove la politica subisce e la colonna sonora, ai noi, è sempre una. A proposito di beni culturali, 8.000 euro per il concerto dei Rolling Stone, sono tanti o sono pochi? Ma secondo me hanno capito che, vedendosi arrivare Marino in bicicletta, avranno capito sarà un'elemosina da elargire alla città di Roma. 70.000 persone, eh? Sì, sì. 8.000 euro. No, sono bravi. Che vuoi no, fare? No, voglio dire, io parlavo dell'affitto. L'affitto, lo so, 70... ma loro sono bravi. Ma sono stati bravissimi. Chi sono stati bravissimi? Quelli che hanno convinto il Comune di Roma a trattare su una cifra. Immagino. Grande cifra. Comunque è stato uno spettacolo ieri su tutti i social, i commenti riguardo a Marino. Dopodiché si è scatenata una gara dove ognuno andava al rialzo a peggiorare, perché dice Marino: e non avete visto De Magistris? De Magistris, se non avete visto, come si chiama quello là? Crocetto. Insomma, mamma mia. Vabbè. Meglio Romeo. Satisfaction proprio. Sara, che vuoi dire? No, volevo dire che sempre ho letto che i Rolling Stones spendevano 14.000 euro per la suite, cioè il circo massimo costa meno dell'albergo dei Rolling Stones. Ho tempora o mores. E quello arriva in bicicletta. Ma secondo me scusate, ma poi si può essere così dada, e sto cercando di fare un complimento, nel dire: ho incontrato Mick e l'ho trovato carichissimo. Wow. Questo, signori miei, un primo cittadino, un sindaco, che imbarazzo. Vabbè. Ma secondo me gli hanno detto che era un concertino di una piccola band locale. Una bolla. The question, jerk. It's absolutely unacceptable. Questo è il grande McEnroe, chi non lo ricorda. Allora, comincia Wimbledon, per gli appassionati di tennis è imperdibile, ma io consiglio a tutti la visione perché è sempre un grandissimo spettacolo. Il tennis sull'erba è il torneo più antico del mondo, il primo si tenne nel 1877, è il terzo del grande slam in ordine cronologico, si gioca ogni anno ed è preceduto dall'Australian Open, dagli Open di Francia e dagli US Open. Al centrale si gioca, subito c'è Andy Murray, bene, l'eroe dell'anno scorso. Bene, Alberto intanto ci scrive: ma il Louvre o i musei di Londra e New York chiudono al mattino per l'assemblea? Tu che sai tutto, Pietrangelo, mattino chiudono per l'assemblea, non si sa? Chiudono per le assemblee? Sì. Sì. Ci non sono i turni di guardia. Ah, va bene, ci fai il canzoniere? Pur tu, solinga, eterna peregrina, che si pensò se sei, tu forse intendi questo viver terreno, il patir nostro, il sospirar, che sia questo morir, questo supremo scolorar del sembiante, e perir dalla terra e venir meno ad ogni usata amata compagnia, e tu certo comprendi il perché delle cose e vedi il frutto del mattin della sera. Mix 24 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, sms Salamino. Giornata di ombre oggi, in tutti i sensi, potrebbe essere anche l'ombra, che nella patria veneta significa una certa cosa, cioè significa proprio un bicchiere di vino, ma non è perché si è ubriachi che di governi se ne vedono due, ce ne sono due. Ne basta uno, direi. No, ce ne sono due, c'è anche il governo di Gianfranco Rotondi, è il governo ombra. Ah, è vero. Sì, è vero, l'avevi dimenticato, invece esiste. Si è riunito. Si è riunito, in 3 mesi si è riunito 3 volte, il che ha creato qualche... Sì. Lo stesso Rotondi ha ammesso che forse Renzi è molto più veloce di lui, però è un fior di governo, c'ha come ministri la Santanchè, Prestigiacomo, Biancofiore, e insomma, però il dinamismo di Renzi lo ha spiazzato. Pure. Allora, lui adesso ha avviato le consultazioni. Il 30 giugno, dopo queste consultazioni, Rotondi presenterà la nuova squadra di governo. Già fa il rimpasto. Fa il rimpasto. Tre riunioni, in 3 mesi, rimpasto. Avrà novità grande. L'abbiamo avuto ospite noi qui in studio, ma sarà nel governo Rotondi, ci sarà Passera. Accidenti. No. Poi metterà con 400 miliardi. Con i 400 miliardi e poi soprattutto i sacchi pieni di soldi. Però ha fatto una premessa, prima si deve fare le ferie e dopo le ferie poi si dedicherà alla politica, perché al governo. Finché c'è l'estate resta movimento, poi in autunno diventa partito, quindi il movimento è in spiaggia. E in inverno diventa regime. Esatto. Allora, non solo, avrà pure Renzi al governo, ha detto, lo metterà alle riforme. Ora non so se questo è stato uno sgarbo alla soave Maria Elena Boschi, però non ha nessun dubbio su Silvio Berlusconi, e qui ha citato, credo, l'unica cosa battuta, gli fa fare? Citato, credo, l'unica battuta spiritosa di Oscar Luigi Scalfaro, buonanima, che diceva che i leader si dividono in 3 categorie, interni, esterni ed eterni. A Berlusconi ha dato l'eternità, perché lui è ancora meglio di qualsiasi capo. Lui è degno di... Non è possibile. Questa cosa è sacrilega. Mi hai toccato, Goldrick. Alessandra da Piacenza. Sì. Alessandra, buongiorno. Buongiorno. E allora cosa ci dice del nostro canzoniere? Canto di un pastore errante dell'aria di Giacomo Leopardi. Giusto, bravissima, Vinto Feltrinelli. Brava. E a casa, signora? Sì, sono a casa. E che fa di bello? Sto nella facendo vita. Le pulizie. Ma lavora? Lavora? No, non lavoro, faccio la casalinga. E ha una passione per la letteratura? Ho fatto l'insegnante, errante anch'io un po' nel mondo, seguendo mio marito. Bene, che faceva cosa suo marito? Mio marito lavora per una banca, per Banca Intesa, e ai tempi Banca Commerciale, abbiamo girato per le filiali del mondo. Famosa perfetto, perfetto. Allora buon ascolto, signora, grazie, molto gentile. Grazie. 800 24 00 24 349 238 6666, a un anno dalla sua scomparsa, raccontiamo dopo il giornale radio la storia di Gigi Rizzi, il famoso playboy che nell'estate del 67 conquistò Brigitte Bardot. Uscimmo a fare sci d'acqua, io mi difendevo bene, lei era molto brava, e poi dopo lo sci d'acqua andammo chez Camille a mangiare la bouillabaisse, ritorno alla Madrag e niente, ci addormentiamo sul pontile e a un certo punto sento che mi accarezzano un piede, io ho bevuto anche, poi ho dormito 2 ore, sci d'acqua, vino, eccetera, bouillabaisse, e niente, dopo mezz'ora eravamo a letto insieme. Mi mandò a prendere i bagagli all'hotel IAK e da lì è nato questo amore. I've been loving you. Quando Newsweek ha scritto nel mese di luglio del 68 nella classifica della stampa mondiale c'è Bernard, Che Guevara e Gigi Rizzi, ero numero 3 nel mondo come press, voglio dire, e io impazzivo di gioia. 68 all'italiana, Gigi Rizzi, grandioso. Nella storia di Felice Pesoli, curata come sempre da Marina Milone. Professore, è capitato anche lei alla Mandraga la stessa cosa? No, guardi, no. L'unica cosa che ho in comune forse è la bouillabaisse, né d'acqua né vento. Arrivo alla bouillabaisse, non di più. Senta, e allora questo canone, oggi ne discutono molto in televisione alla RAI. Di sì, come sì, ripensare la RAI. Intanto allora, il canone dov'era ieri sera? Io ho un'idea, adesso sigla allora. Sentiamo. Ma che aspettate a batterci le mani, a mettere le bandiere sul balcone? Sono arrivati i re dei ciarlatani, i veri guitti sopra il carrozzone. Guardi, professore, guardi che Buttafuoco è andato via. No, è andato via proprio, ha detto no, io non posso stare in una trasmissione con quello professore. Quello lì ancora mi molestava ieri. Questo era il 77 ed era la sigla del teatro di Dario Fo, della famosa o famigerata edizione del 77 che tante polemiche suscitò. Ma il re dei ciarlatani è tornato ieri sera. Allora, adesso aspettiamo di vedere anche i risultati di ascolto. Allora, si può discutere di tutto, si può discutere della impostazione, si può discutere del valore storiografico, del valore divulgativo, delle scelte di regia di Felice K, di tutto. Però io credo che una cosa si debba dire a proposito di canone. Io l'ho detta già tempo fa da una piccola rivista, la rilancio qui con un pubblico molto più ampio. Il problema è l'evento culturale. Io credo che il servizio pubblico dovrebbe impegnarsi a fare una volta al mese, diciamo 10 volte l'anno, tagliamo i due mesi estivi, 10 volte l'anno un evento culturale di questo tipo, con l'attesa, con la preparazione, con i risultati, con tutto quello, con la personalità che non deve essere sempre Dario Fo, per la gioia di Buttafuoco, così lo teniamo qui con noi. Ne faremo fare uno a Buttafuoco, di evento. Uno a Buttafuoco, perché no? Però una volta al mese questo è un impegno per il servizio pubblico. E vabbè, questa è un'idea, è una proposta che potrebbe fare all'assemblea dei 100 che parlano oggi per dare consigli. Ci saranno anche Buttafuoco e Secchi e quindi ne parleremo poi. Anzi, Buttafuoco si impegna a portare questa mia idea. Va bene, d'accordo. Sottoscrivo. E allora sto canone, a parte c'è da fare una considerazione, perché la cosa è un po' intermittente, va e viene, legato ovviamente ai mondiali, ma io credo che dovremmo dare un'occhiata a questo te. Perché insomma è un po' la storia della televisione italiana. Ma siccome io qualche giorno fa, una settimana fa, ho sentito un certo Giovanni Minoli che, intervistato dalla Gruber, ha detto una cosa importante, che quello che conta nella riprogrammazione della RAI è avere il prodotto, è pensare al prodotto. Ha usato la famosa similitudine di Marchionne della 500. Certo. Allora, questo te è pieno di 500. È pieno di idee, esattamente. Se noi avessimo, se la RAI avesse, come dire, rinverdito i suoi format, visto allora, che la televisione è un prodotto commerciale maturo, noi invece di comprarli li avremmo venduti. Professore, la ringrazio e a domani.